Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan, Maria, Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti, Leonardo Manera. In regia il gatto Peter Pescapè. In redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Che bello, cari ascoltatori, con la presigla di Anacleto, siamo già in diretta e ha salutato lui tutta la redazione. Siamo qui, grazie Anacleto, non ti pagheremo neanche un bicchiere di rosso o di bianco lì alla chiesina. È tutto gratuito per la gloria. Evviva, cari ascoltatori, siamo qua per una nuova puntata, una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan, in diretta anche su Facebook. Allora, signori, i saluti li abbiamo fatti. Devo dare i numeri di telefono, che sono 800 24 00 24, per chiamarci. Mandateci messaggi, sms al 349-238-6666. Oggi parleremo molto di lavoro col jus lavorista Pietro Ichino, che sarà con noi. Però, subito, io mi devo collegare con un affaticato Mario Calabresi. Buongiorno. Attenzione. Affaticato non ancora. Mario, non ancora. Dove sei? Soprattutto non ancora sotto... bagnato. Non ancora bagnato. Ma dove sei? Cosa stai facendo? Ti abbiamo messo sotto la canzone di Momenti di Gloria, tra l'altro. Magari. Ti dico solo. Sto pedalando lungo il Po. Sto facendo una cosa che sognavo da tanti anni. Avendo sempre fatto Torino-Milano o in 45 minuti col treno, oppure sì, in un'ora e mezza con la macchina, ho pensato di farla in bicicletta. Per cui sono attenzione, appena partito dalla quindi Mole. Quindi in questo momento stai pedalando. Sono partito dalla Mole 10 minuti fa, stasera punto da arrivare a Vercelli, e domani Vercelli-Milano, e dopodomani Milano fino a Nembro, il posto che è il paese, come sai, più colpito dal coronavirus, sì, il luogo un po' simbolo. E allora volevo fare, in questo tempo in cui si sono riaperti i movimenti, fare un viaggio nel territorio non sportivo, perché io non sono particolarmente sportivo come te. No. E allora ho pensato che valesse la pena andare, fermandosi in un po' di posti, incontrare le persone con la mascherina e fare un po' una cosa lenta di ricucitura del territorio. Adesso sono sulla sponda destra del Po. Il fiume è limaccioso perché ha piovuto, ma è tranquillo e non sta piovendo. Non sta piovendo. Hai sei capito? Da solo? No, sei piovendo. In compagnia. No, in realtà, no, sei... no. Siamo in otto. Tra questi c'è un mio fratello, che però lui è un ciclista vero, va in bicicletta sempre. Mi ha detto: per scaldare le gambe, io ho fatto 170 km sabato e 80 domenica. Io invece sono andato a comprare il giornale. Hai fatto 170 metri. Io sono andato a comprare il giornale. Ridicola. Io sono andato a comprare il giornale, non ho fatto niente di più. Quindi, quando è che tuo fratello inizierà la fuga e ti lascerà e si vedrà questo gruppo sfilacciarsi? Lui lo fa per sé. No, poi ci sono. È che percorro questa strada che mi piaceva, che si chiama AIDA, Alta Italia da Attraversare. Che è una sorta di ciclabile che parte dal confine con la Francia, da Torino poi, e arriva fino a Trieste. E fa tutto il nord Italia, Milano, Bergamo, Brescia, Novara. E allora questa strada ha come cosa bellissima che sono un gruppo di ragazzi che l'hanno messa insieme e cercano di ricucire tutte le strade lungo i canali. Per esempio, noi adesso arriviamo a San Mauro Torinese e prendiamo il canale Cavour. Canale ottocentesco per l'irrigazione. È importante, se qualcuno incrocia questi otto ciclisti, portategli un caffè da parte nostra o un po' un confortino. Ecco, il tuo caffè mi devono portare. Esatto. Quindi comunque, tra poco sei a San Mauro Torinese. Sì, sì. San Mauro, lì prendiamo il canale Cavour che va dal Po al Ticino, 83 km di canale. Benissimo. E per oggi, oggi quanto è la tappa di Torino-Vercelli? Quanti chilometri? Oggi sono 90 chilometri. Secondo mio fratello Paolo mi ha detto, vabbè, 90 chilometri con te li faremo in una giornata. Io li avrei fatti questa mattina, ma ti aspetto. Va bene, quindi l'obiettivo. Allora Mario, ma che bello, esatto. Cioè, domani allora noi ti risentiamo, vorremmo sapere sì, i muscoli come vanno. Esatto. Diciamo la seduta più problematica secondo me. La seduta, sì, infatti se non sei allenato a quello, secondo me è quello sarà il problema esatto. Principale. Va bene, caro Mario, ma che bella questa cosa. Allora, ma c'è qualcuno al tuo fianco che puoi sentire? No, perché state pedalando, rischiate di cadere, no? Però Siamo pedalando. Qualcuno che ti dia del matto in questa iniziativa? No, già, mi sono staccato dagli altri proprio per evitare che accadessi. Di la verità, ti hanno già seminato. Esatto. Ti hanno già seminato. Va bene. Adesso se ho fiato farò Mario... anche una diretta a Instagram. Ottimo. Allora, grazie Mario, pedala, come diceva quel tale. Buona giornata anche a te, ne avrai bisogno, soprattutto incitamenti. Tra poco passa per San Mauro Torinese, lo incrociate insieme ad altri compagni di viaggio da Torino a Nembro. Ragazzi, la pazzia vera e propria. Vai Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Vabbè, Mario Calabresi, quindi è partito insieme a un fratello, insieme ad altri amici, è partito da Torino in bicicletta, l'obiettivo è arrivare a Nembro mercoledì, dove credo si incontrerà, lo attenderà il parroco di Nembro per ricucire un po' il territorio in questa Italia un po' colpita, soprattutto nelle zone colpite dal coronavirus. Ale, viva queste iniziative, viva Mario Calabresi. Allora, come detto, il numero per scriverci 349-238-6666, questo anche per i vostri messaggi, questo anche per le vostre mail. Le mail, l'indirizzo esatto è 100milan@radio24.it. mandateci le vostre mail per i vostri WhatsApp, i vostri audio, sapete che c'è tutto il modo per essere collegati con noi. Allora, mi ha colpito una notizia, detto che oggi parleremo tra poco con un ospite di lavoro. Mi ha colpito una notizia sulla sanatoria, ragazzi. In Italia si sa che il crimine è molto intelligente e laddove vede degli spiragli per fare affari, ecco subito che il crimine ci si butta, purtroppo. Sappiamo che molte aziende, molti esercizi commerciali vengono strozzati dall'usura, bisogna usare proprio questo verbo. Ebbene, l'ultima è la sanatoria. La sanatoria è da poco partita per molti lavoratori stagionali. La criminalità, come racconta Alessandra Ziniti su Repubblica, ci si è buttata a pesce. Sapete com'è il nuovo affare? Questo: ti do un contratto di lavoro falso, che ne so, da badante, da manovale, da colf, da lavapiatti in un ristorante, eccetera. Io ti do un contratto falso e tu in cambio, tu cittadino che vuoi la sanatoria, mi dai 3.000-5.000 euro. Qual è l'affare? Beh, per il criminale si può capire che chi paga 3.000-5.000 euro con quel contratto di lavoro, che però è falso, può andare a chiedere un permesso di soggiorno, questo invece è vero. Quindi la criminalità vende a 3.000-5.000 euro il permesso di soggiorno, questo è il dato di fatto. Ah, qui ci starebbe bene un vecchio adagio nostro, non nostro, ma del che è diventato maledetti! Un simbolo del mondo. Vabbè, non è di questa tipologia di lavoro che volevo parlare con l'ospite che ci ha raggiunto, ma mi piaceva raccontare questa notizia, che è una notizia di cronaca nera, se volete, di criminalità vera e propria, che riguarda il mondo del lavoro, per introdurre l'ospite che ci ha raggiunto e che con particolare piacere saluto, il professor Pietro Ichino. Buongiorno e grazie buongiorno. Di essere qui, professore. Buongiorno. Professore Ichino è un geoslavorista molto noto, è stato anche parlamentare, una vita politica, ma la sua vita soprattutto è la vita da docente universitario, da geoslavorista. Questo è il suo settore. Allora, tra l'altro, professor Ichino, che esce proprio in questi giorni, è uscito un suo saggio, un lavoro per Rizzoli dal titolo L'intelligenza del lavoro, e tra poco ci spiegherà che cosa. Però, professore, oggi ci sono due notizie che secondo me la stuzzicano sui giornali, e cioè l'Ilva, gli operai dell'Ilva di nuovo sul piede di guerra, e aggiungo dalla Stampa: ad Asti auto in crisi, 210 posti a rischio. Perché cito queste notizie? Perché lei, all'interno del suo saggio, parte proprio dal caso della Whirlpool, un caso assimilabile a questi, e dice: ma perché in Italia c'è sempre la tendenza a dire, non so, 500 famiglie rischiano il posto di lavoro, e questo è un dramma, ma in realtà la politica non fa nulla per indirizzare questi lavoratori verso i luoghi fisici dove il lavoro c'è. Cioè, ci si ferma sempre al giusto dramma, ma non si fa quel passo in più. Ce lo vuol spiegare lei quale sarebbe questo passo in più? Sì, questo è il punto di partenza del libro che lei ha citato, e la ringrazio della citazione. Il punto di partenza è che ANPAL e Union Camere a fine 2019 censivano 1.200.000 posti di lavoro qualificato e specializzato che rimanevano permanentemente scoperti per mancanza di persone adatte a ricoprirli. Se noi avessimo saputo istituire i percorsi necessari per condurre altrettanti disoccupati a quei posti, e sono posti accessibili a tutti i livelli professionali, ce n'era un po' per tutti i gusti e tutte le taglie, in tutti i settori, in tutte le fasce professionali. Si trattava di individuare per ciascuna persona il posto più vicino che poteva richiedere il percorso più rapido, 3 mesi, 6 mesi, ma anche 12 mesi, e avviare la transizione dalla posizione di disoccupato o di chi sta perdendo il posto in un'azienda in crisi verso questo 1.200.000 posti, questi veri e propri giacimenti occupazionali, sì, che restano inutilizzati. Certo. Ora, la cosa di cui non ci rendiamo conto è che al paese costa molto di più mantenere i lavoratori di un'impresa marginale, in crisi, diciamo tecnicamente fallita, aggrappati con le unghie e coi denti al loro vecchio posto di lavoro, che oppure mantenere per mesi, anni, le persone in cassa integrazione a 0 ore, che poi vuol dire indennità di disoccupazione, perché di fatto di questo si tratta, piuttosto che pagare una persona magari con un'indennità di formazione robusta vicina al suo ultimo reddito guadagnato, e istituire appunto questo percorso mirato allo sbocco, sì, occupazionale effettivamente esistente, costerebbe molto meno questo che le cosiddette politiche passive. Ecco, a proposito di politiche passive, voglio precisare, lo dico in questo momento perché noi stiamo spendendo decine di miliardi per le politiche passive, per sostenere il reddito, sì, delle persone, e in questo momento è giustissimo farlo, ma fa impressione che mentre troviamo decine di miliardi per questo non riusciamo a trovare neanche un euro per le politiche attive, per investire su questi percorsi necessari. Ecco, ma tra l'altro, professor Ichino, lei ha citato proprio l'ANPAL, è impressionante pensare, cari ascoltatori, che ci possano essere 1.200.000 posti di lavoro, ma non, evidentemente non si intercettano i lavoratori necessari in quei settori. Lei ha citato l'ANPAL, dato quindi ANPAL, c'è questa polemica anche sulla presidenza dell'ANPAL, perché ho letto un'intervista a Mimmo Parisi neopresidente da poco, voluto da Di Maio dei 5 Stelle, a dire i navigator hanno lavorato da casa. Lei invece è molto critico all'idea del reddito di cittadinanza come politica di sostegno per il lavoro. I navigator, intanto cominciamo a dire questo, nei paesi dove l'assistenza al disoccupato o al giovane che si affaccia sul mercato del lavoro viene fatta bene, i job advisor, quelli che fanno l'orientamento professionale, hanno un 2 o 3 anni di formazione specifica post laurea, quindi hanno una conoscenza del mestiere, del mercato del lavoro molto raffinata, ed è questo che rende utile la loro prestazione. Qui con i navigator si è deciso di fare un'imbarcata di migliaia di persone senza alcuna formazione, perché il corsetto di un mese che è stato loro somministrato è evidente che non basta per acquisire le competenze, le conoscenze necessarie, e quindi era inevitabile che questa massa di persone senza un management, perché nessuno li organizza, senza le attrezzature, senza la formazione, servisse a poco o a nulla, non per colpa loro, ma per colpa di chi ha pensato che si potessero promuovere le politiche attive semplicemente buttando acqua nel secchio bucato. Non è così che si fa. Ora, il navigator, ripeto, ho tutto il rispetto per la loro buona volontà quando c'è, ma adesso che ci vengano anche a dire che lavorano da casa, sì, da casa possono aiutare allo smaltimento di pratiche burocratiche. Sì, lei dice però li vede poco formati, questo è il punto rispetto agli esteri. Quelli che lavorano da casa oggi stanno aiutando i centri per l'impiego a smaltire le pratiche burocratiche, ma le politiche attive del lavoro sono tutta un'altra cosa, ce li hanno spacciati come le nuove risorse per mandare la gente al lavoro. Mi devono spiegare come fanno questi a fare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro standosene a casa e soprattutto non avendo l'attrezzatura e la cultura necessaria. Senta, professor Ichino, le chiedo questo, perché la tesi centrale del suo saggio, l'intelligenza del lavoro, è questa. Ci vorrebbero dei lavoratori in grado di scegliersi l'imprenditore. Guardate che è un cambio di paradigma fondamentale, cioè non l'imprenditore che sceglie, ma il lavoratore che sa scegliere l'imprenditore. Cosa significa? Ce lo può spiegare concretamente? Io dico qualcosa di più. Dico che il mercato del lavoro è già oggi, per una parte della forza lavoro, un luogo dove non è soltanto l'imprenditore a selezionare e scegliere i collaboratori da ingaggiare, ma anche il luogo dove è il lavoratore che sceglie il proprio imprenditore. Il lavoratore lo fa quando delimita la zona in cui cerca un'occupazione, delimita il settore, l'area professionale, decide se rivolgersi verso l'impresa artigiana piuttosto che l'impresa di medio o grandi dimensioni, o addirittura si è insoddisfatto di quel che trova intorno a casa propria, migra verso posti. Quindi la scelta già qua una parte della forza lavoro la compie. Il problema è che bisogna mettere in grado tutta la forza lavoro di compiere questa scelta, e questo non è un'utopia. Mi dicono: questa è la tua, è un'utopia provocatoria, ha commentato qualcuno, ma questo è quello che prevede l'articolo 4 della Costituzione, che dice che il diritto al lavoro deve poter essere esercitato da ciascuno secondo la propria possibilità e la propria scelta. Quindi questa è l'unica visione del mercato del lavoro coerente con l'articolo 4 della Costituzione. E proprio il dato che abbiamo citato prima sulle situazioni di skill shortage, cioè le situazioni in cui ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, veri e propri giacimenti occupazionali inutilizzati, ci dimostrano, e proprio questa constatazione ci dice, che l'obiettivo sarebbe raggiungibile, non è affatto irrealistico, ma il diritto al lavoro di cui stiamo parlando, cioè questo diritto di scegliere, lo si costruisce soltanto con i servizi nel mercato del lavoro, servizi di informazione, orientamento, formazione che mirata agli sbocchi effettivi, ovviamente, e assistenza alla mobilità, che sono i servizi sui quali siamo ancora all'anno zero o quasi. E allora, professore, lei come commenta notizia oggi, pagina 3 di Repubblica e l'attualità, lei vuole le politiche attive per il lavoro, notizia, ci sono ancora 1 milione di lavoratori che attendono la cassa integrazione, stime fatte da Valentina Conte con dati INPS, con il presidente dell'INPS che dice entro venerdì, venerdì sono 4 giorni, sistemeremo tutto e arriveranno i soldi a tutti. Ecco, questa cosa è incresciosa, io però non mi sento di, io imputo all'INPS dei crimini ben peggiori di questo, perché in realtà su questa partita bisogna riconoscere che l'INPS è stata travolta da un'ondata del tutto anomala, un vero tsunami di richieste. Milioni di richieste di cassa integrazione tutte in una volta, e si può capire che la struttura amministrativa abbia tardato nell'evadere queste pratiche. Io imputo all'INPS un altro grave difetto, cioè il fatto che le sue piattaforme digitali non funzionano, non consentono al cittadino, per esempio, di accedere con facilità laddove basta, dovrebbe bastare semplicemente il collegamento telematico e per ottenere il beneficio, e invece è talmente astruso e complicato il sistema e soprattutto non funzionante che il cittadino è costretto a rivolgersi al patronato, quindi attivare la pratica burocratica tradizionale di carta. Questo è il vero scandalo, cioè che all'INPS ancora si deve lavorare col vecchio sistema della pratica di carta. Professore, la burocrazia. Però ha sentito quanti politici dire abbatteremo la burocrazia? Lei è stato in politica anche, quante volte l'ha sentito dire lei anche sui TP? Abbatteremo la burocrazia. Purtroppo per abbattere la burocrazia occorre un'amministrazione di cui si controlla la capacità di soddisfare l'utente, il cittadino. Cioè noi oggi abbiamo una struttura burocratica che è centrata prioritariamente sull'interesse degli addetti e solo in seconda battuta, subordinatamente, all'interesse degli utenti. Invece occorrerebbe istituire una responsabilità del management per i risultati di soddisfazione dell'utente. Ma responsabilità significa che se i risultati non si ottengono il manager viene licenziato, viene trasferito altrove, e questo il management pubblico lo ha rifiutato, e anche quando abbiamo fatto una legge che prevedeva sostanzialmente questo e la rotazione nelle posizioni dirigenziali, il sistema l'ha rigettata attraverso una sentenza della Corte Costituzionale che io considero una delle pagine più buie della Consulta, perché la Corte ha, con un artificio logico, cioè ha abrogato una legge che meritava invece di essere mantenuta in vigore. Senta, professore, io nel ringraziarla e salutarla le chiedo questo: cosa si dice sempre questa espressione autunno caldo, abbastanza insopportabile, però lei sa cosa vuol dire, l'ha vissuto anche sulla propria pelle. Ricordo che il professor Ichino è ancora sotto scorta, insomma ha vissuto da vicino anche le stagioni di Marco Biagi, del professor D'Antona. Insomma, questo vuol dire essere anche giuslavoristi in Italia, purtroppo. Si dice autunno caldo. Cosa succederà il 1 settembre, quando le aziende potranno licenziare? Perché fino al 31 agosto no, ma dal 1 settembre sì. Possono succedere tante cose. Può succedere che il governo, per paura di un'ondata di licenziamenti, proroghi il blocco, cosa che può fare solo prorogando la cassa integrazione incondizionata, perché altrimenti ovviamente il blocco sarebbe incostituzionale, ma questo significherebbe paralizzare il sistema perpetuando una assistenza del tutto anomala. Sì, non è che si può, non è che si può in eterno dire è vietato licenziare, dopodiché i nodi vengono al pettine. Quindi come questa si soluzione si spera che venga, che non sia quella a cui ci troveremo davanti. Se non si tratterà di questo, occorre, è urgente che il governo metta in atto, diciamo, utilizzi questi 3 mesi che ha a disposizione per attivare i canali di cui parlavo prima. I soldi ci sono, bisogna imparare a spenderli nelle politiche attive invece che nelle politiche passive. Questo è il lascito. Che i soldi ci sono e che questa è la riforma forse più importante di cui ha bisogno il paese, bisogna investire su questo. E quindi però per questo occorre innanzitutto un governo che abbia un'idea, un ministro del lavoro che abbia un progetto su questo piano. Io ancora non ho visto macinare idee, discussioni, progetti, piani industriali per e questa è la cosa che mi preoccupa. In realtà in 3 mesi si possono fare molte cose e ripeto, i fondi ci sono e ripeto ancora una volta, le politiche attive a ben vedere costano meno delle politiche passive, perché ogni ricollocato sono gettiti fiscali, gettiti contributivi che, e soprattutto economia che si rimette in moto e che evidentemente è un beneficio complessivo per il paese che vale tanto oro quanto pesa. Io la ringrazio professore per essere stato con noi, ripeto, di Pietro Ichino, leggete L'intelligenza del lavoro, se lo volete lo trovate per Rizzoli in libreria, un nuovo modo, insomma, quella che è l'utopia definita da alcuni, ma invece le idee in cui Ichino crede. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi rientriamo. Secondo voi, lo aveva promesso, da oggi Leonardo Manera sarà in diretta video su Facebook? Chi lo sa, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Paolino, comunque io sabato sera per trovare un posto in un ristorante ne ho chiamati 4 e al quarto mi ha detto sì, ho un tavolino da 2 e basta. Perché è più facile fare welfare e mantenere a casa le persone con reddito di cittadinanza che organizzare qualcosa per facilitare il lavoro, la formazione e portare queste persone che in realtà non hanno voglia di fare nulla, sinceramente, al lavoro. Ci siamo noi, c'è il nostro Leonardo Manera. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei in video? Buona settimana. Sei in video su Facebook in diretta? Eccolo qua, il pagliaccio Manera. Abbiamo messo su Facebook il pagliaccio Manera. Attenzione, l'abbiamo messo grazie a Sandro Fortunati. Allora, potete andare su Facebook e vedere in diretta. Cosa avete contro foto di me? Vai su Facebook, su uno e su 100.000 ne troverai il pagliaccio Maniera. Attenzione, non è un errore che non l'abbiamo scritto senza G, non è un errore, è proprio così, il pagliaccio. Sei un pagliaccio. Allora io vorrei dovevi che tu essere in diretta video. In settimana mi organizzo con Sandro Fortunato. Mi organizzo Fortunati. Sabato sarò in diretta a Facebook, va bene. Sei veramente, ragazzi, ma è un cialtrone, questa è la verità. Ho avuto delle incombenze questa settimana. Compenso a me mi hanno scritto con me l'ha scritto con 2 i, ha scritto con 2 i Sandro Fortunati, Alessandro Milan, e poi si è perso la G di pagliaccio. Ma scusa, adesso Tu dovresti spiegarmi cosa acquista in più la trasmissione se ti vedono in diretta Facebook da casa. Cosa cambia? Non cambia niente. Sei un pagliaccio. Ma infatti, guarda, vedono un pagliaccio e sono contenti così. Sono contenti così. Va bene così. Tutto bene, Leonardo? Sì. Ma sì, dai, tutto bene. Dai. Sono qui sul mio divano. Sentito bene, Calabresi che era in bicicletta, io sono sul mio divano. E tu sei sul divano, stupendo, stupendo. Mm. Dai, adesso vogliamo salutare il primario del pronto soccorso di Codogno. Io sono contento che sia con noi Stefano Paglia. Buongiorno, professore, eccoci qua. Buongiorno, dottore, va bene? Dottore, va bene, perché a Codogno sono passati un po' di tempi. Io spero di sentirla un po' più tranquillo rispetto a un paio di mesi fa. Sono stati due mesi veramente. Come va adesso a Codogno, pronto soccorso? Allora, diciamo che il pronto soccorso di Codogno e il pronto soccorso di Lodi sono la stessa struttura. Quindi sono una SST unica, un organico unico, una struttura unificata. Quindi il processo di Codogno sta andando molto bene. Devo dire che abbiamo aperto da pochi giorni, abbiamo degli accessi che sono ancora modesti, 35-40 persone al giorno, ma il percorso che abbiamo ideato ci sembra funzionare e siamo felici di questo perché non abbiamo ovviamente riaperto lo stesso pronto soccorso di prima, abbiamo riaperto un pronto soccorso che è stato ideato, strutturato e letteralmente ricostruito sulla base dell'esperienza dei 104 giorni precedenti a Lodi, che sono stati molto duri. Abbiamo imparato cosa serve per un pronto soccorso. Stiamo parlando a Codogno di un piccolo pronto soccorso, medio direi, non piccolo, medio, di un ospedale di medie dimensioni che gestiva prima del Covid circa 30.000 pazienti l'anno. Su Lodi invece abbiamo un DEA di primo livello che ne gestiva circa 70.000, però le problematiche gestionali che dobbiamo affrontare le abbiamo utilizzate per ideare e costruire un pronto soccorso che speriamo funzioni. Per il momento sembra funzionare. Funziona, tra l'altro quando c'è stata la riapertura è stato anche un po' un simbolo di un'Italia davvero che può provare a ripartire. C'è stato anche un falso allarme, nel senso che si pensava a un primo caso positivo, poi dopo fortunatamente non è stato così. Il primo caso positivo è dato il giorno dopo, nel senso che che c'è stato, a mio parere, se mi permette, una stranissima considerazione. Devo dire che tutti quanti noi siamo rimasti molto colpiti dall'attenzione mediatica su questo presunto primo caso, come se fosse un primo caso diverso da tutti i primi casi che abbiamo continuato a vedere con regolarità a Lodi in questo periodo. Era del tutto evidente che sarebbero arrivati dei nuovi primi casi, sporadici e medio gravi. La considerazione che lei fa fare una riflessione più a noi giornalisti come categoria. Io sono stato anche critico nei confronti di certo sensazionalismo, no? Che lei giustamente ci dice perché deve far notizia il caso di un positivo a Codogno. Adesso ci sono in tutta Italia. Ma è evidente che sarebbe arrivato, come le confermo, non è arrivato il giorno 4, è arrivato il giorno 5. Una persona giovane con un tampone positivo, pauci asintomatica, solo problemi periferici, è stata dimessa e basta. Era ovvio che sarebbe successo. In tutto questo questa discussione anche le avrà sentiti, il professor Zangrillo è venuto qui da noi, insomma, il tema del come si presentano i malati adesso positivi, voi lo potete vedere perché come presidio arriva da voi, come arrivano? Cioè possiamo dire che al momento arrivano in maniera meno grave? La prima cosa che se mi permette di fare è sicuramente un saluto a professor Zangrillo, persona che ho imparato e che ho conosciuto in momenti cupi e persona, diciamo, di sostanza che ha la mia stima. Quindi sicuramente prima di tutto un saluto, perché diciamo che è un operativo e ho avuto occasione di vederlo quando avevamo bisogno di aiuto e questo è una cosa importante. La cosa che devo dire è che in maniera del tutto evidente la malattia nella sua forma letale, quindi la malattia nella sua fase acuta, quella che purtroppo è esplosa, direi dal 21 pomeriggio di febbraio, ha avuto una e ci ha fatto compagnia, diciamo, mi passi questo termine, fino almeno a fine aprile. poi le cose sono cambiate, nel senso che quella malattia lì, che aveva delle caratteristiche molto particolari, molto specifiche, quindi una evoluzione molto rapida, drammatica, con delle caratteristiche cliniche su cui non ha importanza entrare in questo momento, però direi definibile come stigmatica. Cioè, in tutto quel periodo le garantisco che fare diagnosi non è mai stato un problema, nel senso che sì, la sindrome era una sindrome evidente. È stata un'esperienza molto importante per tutti noi, anche perché, come credo lei potrà comprendere, non capita tutti i giorni a un medico di incontrare una nuova malattia, una nuova sindrome, quindi è una cosa, veramente una cosa molto particolare, verificare e avere un contatto diretto con una prima malattia. È stata un'esperienza, devo dire, unica, speriamo non si ripeta, ma ecco, diciamo che la definizione del quadro sindromico non è mai stata molto complicata, infatti ci abbiamo messo francamente relativamente poco. I primi documenti che descrivono la malattia sono del 6 di marzo, quindi il 6 di marzo abbiamo lanciato, credo, delle prime settimane di marzo, abbiamo lanciato questo warning sui siti della CIMEU dove descrivevamo esattamente il quadro sindromico. Però quella roba lì è durata, non c'è più. È durata fino ad aprile, verso fine aprile. Devo dire che da maggio quella roba lì l'abbiamo vista molto sporadica e poi non l'abbiamo vista sostanzialmente più. Che cosa stiamo vedendo adesso? Stiamo vedendo quello che abbiamo visto tra dicembre, gennaio e febbraio. Quindi si spera, cioè, sì, Leo. Solo una domanda, ma se oggi, se ipoteticamente in autunno si dovesse ripresentare, come alcuni dicono, nella forma diciamo più aggressiva, conoscendo la malattia oggi sareste in grado di curarla, per esempio si parla delle parine eccetera, in modo anche più efficace? Allora, voglio essere molto molto chiaro, quello che sappiamo fare decisamente meglio è curare le forme più gravi. Le forme più gravi, c'è tutta questa tematica legata all'importanza dell'ingaggio precoce dei sistemi di CPAP, che senza entrare un po' nelle cose troppo tecniche, sono quei dispositivi che servono per spingere l'aria all'interno dei polmoni, l'ossigeno, mentre il paziente respira ancora spontaneamente ed è cosciente. L'altro tema ancora è il momento esatto in cui intubare il paziente, l'altro tema ancora è il tema dell'eparina, che ormai è abbastanza consolidato, alcuni trattamenti antivirali piuttosto di altri, anche se le sperimentazioni sono ancora, quindi su questo c'è stato un grande miglioramento. Beh, diciamo che chiaramente questi mesi sono serviti a imparare come trattare i pazienti più critici. Inoltre siamo sicuramente tutti decisamente più pronti e preparati. Dovete pensare che noi abbiamo attrezzato, in una fase in cui abbiamo avuto ampissimo accesso a risorse, perché essendo stati primi, per noi i rifornimenti non sono mai stati un problema, ci siamo dotati di una quantità di materiale che era impensabile. L'aggettivo giusto è impensabile. E abbiamo modificato i modelli organizzativi, adesso questi standard sono sostanzialmente, credo, universali. Quindi abbiamo tutto quello che serve. Insomma, diciamo, siete preparati. Intanto facciamo così, dottor Paglia, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Noi la ringraziamo. Ripeto, Stefano Paglia, il primario, il pronto soccorso di Codogno, quella località che tutti abbiamo imparato a conoscere con il paziente 1. Traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, le 9:49 minuti, vorrei leggerti, caro Leonardo, so che sei molto ansioso di questo, un brano di Io sono il potere. Te ne ho parlato di questo libro? Ma guarda, forse è la prima volta oggi, penso che sia la prima volta. Molti mi hanno scritto e sono le confessioni in anonimo di un capo di gabinetto. Voglio leggerne un pezzettino al giorno e poi dopo ne parleremo con l'autore, chi lo sa, a fine settimana. Senti qua. Il capo di gabinetto che scrive: il più delle volte il ministro ci chiede di fare una legge non perché la ritiene giusta, non perché glielo chiedono le categorie interessate, non perché serve al partito, ma soltanto perché è di moda. Perché c'è bisogno di battere un colpo, di emettere un suono, perché gli omicidi stradali causati da ubriachi riempiono i pomeriggi televisivi e le sigarette elettroniche sono su tutti i giornali. Inutile obiettare che basterebbero le leggi esistenti e punire gli ubriachi assassini. Lo Stato deve far vedere ai cittadini che se ne occupa, che sa fare qualcosa. Per questo spesso si scrivono leggi che sono soltanto manifesti. manifesti politici. E ce ne sono diverse. Se il ministro ti chiede di scrivere una legge per vietare la pizza, tu la scrivi. Una legge che all'articolo 1 ne proibisce categoricamente produzione e consumo, però all'articolo 2 rimette la definizione di tempi e modalità per l'eliminazione del commercio a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell'Economia e Politiche e Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole, sentita l'autorità garante e previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Quel decreto non sarà mai emanato. Nella malaugurata ipotesi ci sarà sempre la bocciatura del Consiglio di Stato e la pizza continuerà a essere transitoriamente e felicemente mangiata. Ecco come si fanno le leggi in Italia. Sono leggi caro. Che si autoannullano, leggi manifesto, leggi, così puoi dire ho fatto la legge, ma serve? No, serviva perché bisognava battere un colpo. Serve poi in campagna elettorale per dire noi abbiamo fatto quella legge che poi non è stata approvata, non è entrata in vigore per colpa di. Quindi è una duplice per colpa funzione. Della manina, noi abbiamo, della manina, per colpa noi della abbiamo manina. Fatto, ma gli altri ci hanno impedito. Quindi è una duplice certo. funzione. È colpa degli altri. È colpa certo, del governo precedente. Sempre. Certo. Sì, vai. Sempre colpa degli altri. Allora, credo che molti di voi abbiano visto le immagini di come si ipotizza di mandare a scuola i nostri ragazzi il prossimo anno, separati uno dall'altro da gabbie di plexiglass, distanziati in un ambiente che sembra più da istituto di rieducazione forzata che non da aula scolastica. Tutto in nome della seconda ondata del virus che potrebbe arrivare o potrebbe non arrivare, oppure potrebbe rimanere il coronavirus come molti altri coronavirus che stanno da sempre in mezzo a noi senza creare troppi danni. E allora, per scongiurare Covid-2 il ritorno, tutti gli esperti, tutte le task force a immaginare le più cervellotiche misure di distanziamento sociale che però poi all'atto pratico sono irrealizzabili. Mettiamo le gabbie di plexiglass, ha probabilmente proposto qualcuno. Facciamoli venire con addosso gli scafandri da palombaro, ha forse proposto qualcun altro. Mettiamo agli studenti del nastro adesivo su tutte le mucose, onde evitare l'infezione, ha chi osato forse qualche altro task forzato. Immagino che tutti quelli preposti a trovare soluzioni inattuabili si siano più volte riuniti e ognuno abbia detto la sua, mentre la ministra Azzolina, pensosa, valutava analisi e proposte per tutelare i nostri figli che, lo ricordiamo, non sono imbuti da riempire. La ministra Azzolina valutava analisi e proposte per tutelare i nostri figli da una malattia che sui nostri figli non ha praticamente causato alcun danno. Certo, mi si obietterà, ma poi quelli tornano a casa da scuola e infettano i nonni. E allora forse qualcuna task force terza età ha proposto delle misure anche per tutelare gli anziani. Facciamo ripartire i cantieri e chiudiamolo tutti lì, così oltre ad essere lontani dai bambini hanno anche qualcosa a guardare per divertirsi. I vecchi trucchiamoli da giovani, così il virus non si accanisce su di loro. Obblighiamo ogni famiglia a costruire dentro casa un bunker, meglio se sotterraneo, in modo che il vecchio isolato non possa incontrare il virus portato dal bimbo untore e così via. Tutte misure apprezzabili, sicuramente degne di gente che ha studiato, ma praticamente irrealizzabili. Se anche noi genitori volessimo mandare i nostri figli in quegli istituti di rieducazione con gabbie di plexiglass, poi però si pone il problema della ricreazione. Durante la ricreazione che si fa? Si mette una guardia col manganello a tenere i bambini distanziati un metro uno dall'altro? Diamo, come avevo letto qualche tempo fa, un braccialetto elettronico ai bambini che vibra e magari regala una scossa elettrica ogni volta che il fatidico metro di distanza viene meno? Iniettiamo loro delle dosi massicce di bromuro che li tengano sui banchi tranquilli durante la ricreazione e poi, quando riprende la lezione, una bella iniezione di adrenalina? Li facciamo controllare da droni che volano sopra le scuole mentre magari Bruno Vespa di sera ricostruisce il comportamento dei studenti cattivi con i suoi plastici a porta le norme, io credo, vengono rispettate quando è possibile rispettarle, altrimenti poi ognuno si regola a modo proprio secondo il buon senso, che è un'unità di misura del tutto personale. Per esempio, Per alcuni è buon senso rimanere fedeli alla moglie e o al marito per tutta la vita. Per altri, più che buon senso, la fedeltà completa e assoluta è la morte civile. E allora, se ci propongono norme e comportamenti che ci appaiono ridicoli o inutilmente vessatori, poi ognuno, per reazione, tenderà a cercare spazi di libertà e socialità necessaria, aprendo in quel caso, magari sì, la strada a leggerezze eccessive sulle quali la palla del coronavirus rotolerà più felicemente di prima, come su un piano inclinato. Lo stesso piano inclinato sulla quale rotola, gioiosa, la biglia dal senno perduto di certe proposte assurde e irrealizzabili. Bravo Leo, devo dire che moltissimi sono colpiti, oltre che dai tuoi monologhi, anche dal fatto che oggi appari su Facebook. Stavo vedendo i commenti, il pagliaccio Manera con tutta la sua, il suo bel naso rosso, adesso la sua barocca, vario pinta, vai a vederlo, ti prego, vai su Facebook, ma io sono fai questo sforzo, sì, su uno nessuno 100 Milan, apri il video e c'è il pagliaccio Manera. Mi viene fuori solo il tuo faccione con dietro la libreria, non vedo nulla. Ma d'altro. Perché prima non c'eri, Sandro, glielo puoi rimettere adesso per favore, Sandro Fortunati, perché forse lo mette quando parli tu, cioè poi, non lo, poi lo toglie quando invece non sono vedere i tuoi momenti. Adesso forse non ci sei. Se riesci, non Sandro, rimettiglielo per favore. Dicendo... Tra l'altro, non ci sono. Scusami, stai dicendo adesso le non ci sei. Eccolo qua. Guarda qua. Il pagliaccio. Sì, ma l'ha tenuto un nano secondo. Ma no, adesso lo rimettono. Io pensavo una cosa col mio viso modificato, invece no. Quello sarebbe stato come immagine. Un'immagine scadente, l'avrà messa Sandro Fortunato. Andiamo al giornale radio. Fortunati al giornale radio, sì. Vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, auguro a quello che ti dice che sei un pagliaccio di avere la tua intelligenza. Sei un grande, ciao! Grande pagliaccio, peraltro ha detto pagliaccio, eccolo qua, lo potete vedere su Facebook in questo momento, Leonardo Manera collegato da casa sua, non in vestaglia ma con un vestito variopinto, una parrucca di vari colori, il pagliaccio Manera, signore. Tra l'altro io sono orgoglioso, sai quante volte l'ho fatto nelle feste per bambini, per strada, sono orgoglioso delle mie esperienze, pregresse. Ma noi mettiamo che è un pagliaccio perché aveva detto che sarebbe stato in diretta su Radio 24, oggi in diretta video Facebook e invece si sa come mantiene. Eccolo qua, è colpa Salvatore di Corsi. Sandro Fortunato. È colpa di Sandro Fortunato. Sì. Fortunati. Questo sì, lo dice sempre lei. Spreca cenere. Ma guarda che uno t'ha messo la tua foto con la parrucca da pagliaccio. Se vai, Salvatore Corsi, lo ringraziamo, ha fatto il fotomontaggio. E ci sei, adesso ci sei, pagliaccio con la faccia tua. Allora, ma tra l'altro sai che ci sono molte persone che dicono che sono usciti i numeri, credo 2-3 secchi del tuo sogno dei gatti di venerdì? Ambo secco, io poi cioè chi li ha giocati? Ho dimenticato di giocarli, non li ho giocati. Però avrei diritto a una percentuale a questo punto. No, tra l'altro l'ascoltatore dice se la prossima volta ci dice anche la ruota su cui giocare per evitare di farci giocare su tutte le ruote. Magari c'è uno che ha detto il 2 e 3 sono usciti ambo secco a Palermo, azzeccato, e un altro ascoltatore ha detto sono usciti i numeri. E potrebbe trasformarsi nel nuovo lavoro di Manera, il venerdì dai numeri. Per il lotto. No, allora, dico quali sogni ho fatto sì, e poi sulla base. Sì. E poi diamo i numeri. Sì. Sono usciti a Palermo, conferma l'Alpino rubando lavoro a Lucchetti, che sarà fintamente indaffarata a fare qualcosa nella sua celebre tecnica Lucchetti. Allora, sono ritornate le sardine. Tra l'altro, le sardine in piazza e alcune sardine erano anche alla manifestazione di solidarietà per l'uccisione di George Floyd in America, per esempio la sardina cristallo. Secondo me questa farà politica, sicuro. Vai Alpino. È successo in America, non è qualcosa che è distante da noi. Noi non siamo immuni da quel genere di problematica. Ogni volta che c'è una questa è la sardina, la sardina. che ha parlato nella manifestazione di George Floyd. Tra l'altro mi ha molto colpito leggere le sardine in piazza che cosa chiedono con il suo leader Santori: più educazione, bisognerebbe educare gli italiani, effettivamente. Capito che pronto. L'educazione buongiorno, sono Elenio Mariotti. Elenio Mariotti, sardine, rappresentante delle sardine. Ma l'educazione è al primo posto, no? Perché altrimenti senza educazione non puoi mica capire. Cioè, vorrei esprimermi in modo un po' esplicito oggi, no? Per esempio, quando metti il sale nell'acqua, se si scioglie non lo vedi, ma comunque sai che c'è. Invece se metti l'olio nell'acqua lo vedi. E allora lo cosa vedi? Bisogna fare? Cioè, non lo so, bisogna sapere sale essere come noi, cioè, no, come noi bisogna sapere essere sale e sapere essere olio, cioè, nel senso che però ci vuole l'acqua. Non so se mi sono spiegato, per quello che dobbiamo garantire l'acqua per tutti, capito? Perché cioè, voglio spiegarmi anche in un modo con l'educazione, sarebbe il caso essere invadente, per la prima volta. Sì? Perché allora l'acqua è la piazza, no? E dentro questa piazza c'è il sale e l'olio. Sale e l'olio che siamo noi. C'è il sale che non si vede, ma allora ci facciamo anche olio, perché facciamo l'olio che si vede nella piazza che è l'acqua, con dentro il sale, che è il contenuto. Lei, Elenio Mariotti, era in piazza, era in acqua, il sale, non ho capito, vabbè, c'era. Ma noi ci siamo anche quando non ci siamo, perché siamo il sale della società, con educazione, anche quando non ci vedono. E poi siamo anche l'olio. Sì. L'importante è non essere maleducati come l'aceto. No, certo. Che l'aceto è... L'aceto è un po' maleducato. L'aceto è maleducato, è invadente, l'aceto è invadente, come sapore invadente. Allora noi con l'educazione siamo sale e olio, però l'aceto nell'acqua. No, che va l'aceto bene tutto, no, ma l'aceto no. Educazione. Quindi attenzione, questa è una prima posizione, le sardine sono contro la maleducazione dell'aceto, e questo è importante. Sì, non vorrei essere stato troppo esplicito. Comunque no, va bene per carità. Un grano salis, va bene l'olio, quello delicato, non con un basso... Sì, non con alta acidità, però l'aceto no, va bene tutto, ma l'aceto veramente no. Questa è la cosa che è maleducato, è la cosa che ci in qualche modo contraddistingue. Va bene, la ringraziamo, Elenio Mariotti. Ma neanche quello balsamico, perché l'aceto balsamico si presenta sotto mentite spoglie. Cioè sembra che sia più educato dell'aceto rosso di vino. Invece no. È maleducato uguale. È più maleducato l'aceto balsamico, ti frega. Io la penso così, scusate. Una finta educazione. Troppo esplicito però, si fermi lì, non sia troppo esplicito, Mariotti. Chiedo scusa se è un po' ecceduto, ecco, nella spiegazione, neanche nell'essere un po' troppo aggressivo. Comunque penso che in certi casi dobbiamo anche noi prendere le nostre posizioni, come ho fatto io, in modo chiaro, questa mattina. Sì, grazie. C'è Gianni da Milano. Grazie, Elenio, per essere stato con noi. Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sento che Mario Calabresi sta facendo il percorso da Milano a Nembro. Da Torino a Nembro. Non lo riduca così, è partito fino a Nembro. No, io sono uno di quelli che della FIAB che ha tracciato la ciclovia, per cui l'ho fatta tutta in due periodi. Ho fatto sia il Milano-Torino e poi soprattutto il Verona-Trieste, no? Sì. È stata un'esperienza molto interessante. Purtroppo per Calabresi oggi piove, però. Diceva che non pioveva ancora quando è partito, però chi lo sa, adesso sarà dalle parti. Magari lo sentiamo un attimo, potremmo anche chiamarlo. Sta andando a Vercelli, poi attraverso Sesia, eccetera. Sì. Sono 900, comunque in totale a Ida sono 900 chilometri. Si va da Susa a Trieste. Ma vogliamo, lo dico a Claudia Schiattone che ci ascolta in questo momento, è lì insieme all'Alpino, vogliamo provare a richiamarlo Mario Calabresi, se ci avete anche il numero, così se riusciamo a recuperarlo dopo il traffico. Gianni da Milano, stia un attimo con noi, vediamo di recuperare Mario Calabresi per un breve collegamento, così magari vi scambiate un parere. Intanto informo che abbiamo messo la foto, ringraziando l'ascoltatore che ci ha fornito questa opportunità, del pagliaccio Manera, proprio Manera, stavolta sei tu, sei proprio tu. Oh, non ho messo la mia foto con la parrucca. Dai, vai a vedere. Adesso la tua foto a vedere con la parrucca. Il pagliaccio, ricordatevi. Ma se volete ve ne mando io che una non è un errore di ortografia. Vabbè, no, adesso, è un modo dispregiativo in cui venivo definito quando una volta sono stato definito quando facevo le feste per bambini perché avevo abbandonato subito. E la madre mi disse, lo ripeto ancora, disse, lei è proprio un pagliaccio, mi disse così in modo dispregiativo. Così, senza la G, quindi no, per dire che non abbiamo fatto un errore, lo chiamiamo così, pagliaccio, perché è quello che merita, dopo aver detto che oggi sarebbe stato in diretta video col suo vestaglione da casa sua, e invece eccolo là, non c'è e non ci sarà neanche domani, e neanche dopodomani. Allora, andiamo a sentire un attimo le informazioni sul traffico, poi vediamo se recuperiamo Mario Calabresi, se ancora arranca sulla I. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signora, alle 10:17 minuti, caro Gianni da Milano, ci sei Gianni? Ci sono. Ecco, l'abbiamo recuperato il nostro Mario Calabresi che sta arrancando sulla qui. Ida. Sta arrancando. Allora, lungo caro Mario. Lungo il cavallo che vuoi. C'è Gianni da Milano che fa parte di un'associazione, dice che l'ha fatta lui tempo fa questa Ida. L'ha fatta, Gianni, cosa dice? Non lo so, ma parlaci. Cosa? Io ho fatto il tracciamento di Aida qualche anno fa e il Torino-Milano l'ho tracciato in particolare, poi ho fatto anche il Verona-Trieste, ma adesso dove siete? Siete dalle parti di Chivasso, immagino. È bellissimo, sì, non ancora Chivasso, un pochino prima di Chivasso. Chivasso ci arriverà quando il fiato sarà rotto. È bellissimo, abbiamo fatto la presa del canale Cavour, stiamo seguendo il canale Cavour. Ti dico una roba che mi impressiona, perché mi sono incuriosito, ho studiato un po'. Il canale Cavour, 83 chilometri di canale, 110 ponti, nel 1863 iniziano a costruirlo, lo fanno in tre anni. Ecco. Adesso neanche una fermata della metropolitana perché in tre anni. Aggiungiamo una cosa, che hanno il dislivello del canale Cavour, adesso non sparo la cifra, ma è molto piccolo, e hanno dovuto fare una lunga deviazione per evitare di dividere a metà le terre del conte di Cavour, di Camillo Benso di Cavour, il quale voleva che fossero irrigate completamente, e quindi ha fatto deviare il canale. Dal punto di vista ingegneristico è stato un problema molto difficile riuscire a farlo perché non c'era la pendenza. Però ce l'hanno fatta, capito caro Mario? I nostri ascoltatori, quando hanno sentito che sei sulla Ida, si sono lanciati così. Mario Calabresi veramente sta facendo questa cosa o sta millantando? Perché io non ci credo davvero. Manera non ci crede. Aspetta, senti, bravo, Mario, trattalo male. Com'è che l'hai chiamato? No, ma io sono sicuro che può farcela anche lui. Se la faccio io ce la può fare anche lui. No, ma com'è che l'hai chiamato? Mi interessava. Vestaglione Manera, certo. Io non ci credo. Io vorrei Manera. Tu devi sapere che io mi posso permettere di chiamarti Vestaglione, perché siccome io sostanzialmente faccio il tappabuchi, ogni tanto quando tu non ci sei Milan chiama la sera alle 10 e dice, non è vero, non c'è domani mattina. Ma non è vero. Dai, allora, tu che ti offriamo il caffè, cosa che poi non io propongo vero. Io propongo a Mario Calabresi di esautorare Alessandro Milan, fare una occupazione di uno, nessuno, la 100 Milan e te. La facciamo io e te. Sì. Milan a casa. Fidati dell'affidabilità di Vestaglione Manera, caro Mario. Ragazzi, ti fa male andare in bicicletta? Poi ti dimentica l'ora in cui era programmato. Esatto. Leonardo di quelli, dai, rivoluzione! Poi lo chiami, dove sei? Ma sono al Bar Gimbi a bere un caffè, perché cosa c'è? Ecco, questo è Manera. Va bene, Mario, ti lasciamo. Sì, ti lasciamo a pedalare, bocca al lupo. Sì, le rivoluzioni sulle quali tu ironizzi da bar, le rivoluzioni, sì. le rivoluzioni partono sempre dai bar. Sempre dai bar, perché ci si trova al bar, si comincia a discutere, a immaginare un mondo migliore, quindi ipoteticamente una nuova rivoluzione italiana potrebbe partire proprio dal bar Jimmy, e lì si immaginerà un mondo migliore. Jimmy verrà arrestato per riunione sediziosa oggi, lui non lo sa il motivo, e Leonardo ovviamente non lo difenderà, dirà: ma come no Jimmy, non volevi fare il rivoluzionario anarchico? Vabbè. Allora ringraziamo anche Gianni da Milano ovviamente, che ci ha dato questo spaccato stupendo della IDA, questo tracciato che sta facendo Mario Calabresi in bicicletta. E adesso, caro Leonardo, vogliamo tornare non sulla questione Paul McCartney biglietti, ma la questione riguarda i tantissimi utenti che hanno comprato un biglietto per un concerto che non ci sarà, di qualsivoglia artista, e che alcuni sono stati rimborsati, l'abbiamo raccontata mille volte. C'è stata la rivolta dei fan di Paul McCartney perché dicono che il promoter dovrebbe ridare loro i soldi invece di pagarli con un voucher per un concerto di altri artisti di cui loro forse non frega nulla. Adesso abbiamo, e torna con noi, Sergio Battelli, che oltre a essere deputato 5 Stelle presente alla Commissione per le politiche europee della Camera, è anche un artista, no? Si può dire, onorevole Battelli, insomma fa parte di un gruppo. Buongiorno e grazie di essere qui. Sì, buongiorno a voi, è un piacere essere di nuovo con voi. Sì, in realtà è il mio hobby da sempre, quello di suonare, quindi è tutto un settore che io, che a me conosce piace bene, molto, conosco bene. Sì. E che appunto mi sono sempre occupato. Conoscete la questione del secondary ticketing, di cui mi sono occupato e come, di cui no, mi sono come no, l'abbiamo ospitato varie volte. Quindi in realtà adesso anche quest'anno abbiamo un altro discorso di questo tipo da affrontare, lo dobbiamo affrontare al meglio. Ecco, il tema è questo: lei che cosa propone? Cioè questi voucher, intanto le danno fastidio l'idea di dire non puoi andare a vedere il concerto, che ne so, di Vasco Rossi, ti do un voucher per un concerto di un altro artista, o ci sta come principio? Allora, io devo fare una premessa doverosa, perché il settore della musica live è stato forse quello che ancora adesso sta subendo i problemi maggiori, perché i concerti non sono ripartiti. C'è una filiera enorme, non solo proprio del settore, di chi lavora in questo settore del live, ma anche di tutto l'indotto, non solo appunto per i concerti mancati, ma anche per non sapere come e quando si potrà iniziare a ripartire con questo settore. Quindi c'è un problema evidente, e io sono assolutamente d'accordo con gli organizzatori che questa, la colpa non è dell'organizzatore, ma non è neanche del cliente che comunque ha comprato il biglietto. Quindi io devo dire per correttezza che gli organizzatori hanno utilizzato una norma che era all'interno del Cura Italia, quindi non c'è nessun illecito per quanto riguarda questo, però è una norma che obiettivamente, fatta in un decreto emergenziale al massimo, perché eravamo proprio nella fase più problematica dell'emergenza, è stato fatto questo decreto che La interrompo norma. Su questo, Battelli, la interrompo su questo, perché sul concerto di Paul McCartney nello specifico moltissimi che hanno comprato il biglietto ci hanno obiettato a dire: guardate che Paul McCartney ha annullato i concerti qualche giorno prima del Cura Italia, del varo del Cura Italia, quindi come dire, il promoter cosa ha fatto? Ha atteso il Cura Italia, però avrebbe potuto il giorno dopo l'annullamento dire vi restituisco i soldi, invece ha atteso il Cura Italia. Esatto, vabbè, ma comunque, infatti, vabbè, questo è un problema del promoter, quindi io sto parlando a livello generale, perché comunque sia io capisco che l'organizzatore ha affrontato delle spese, però c'è anche un diritto del cliente, del consumatore, come vogliamo chiamarlo, che ha comprato un titolo d'ingresso e che non ha diciamo potuto partecipare a questo evento. Quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, visto che la colpa non è dell'organizzatore, perché non c'è stata un'inadempienza da parte dell'organizzatore, però c'è anche il cliente che deve avere almeno la possibilità di scegliere se utilizzare un voucher. E io sono d'accordo di dare un periodo di tempo, perché magari molti fan, magari tanti, hanno comprato quel biglietto perché vogliono andare a vedere quel concerto, ma diciamo che nella maggior parte dei casi, molte volte, alcuni possono anche andare a vedere altri concerti, quindi ci sta il voucher. Però ci deve essere anche la possibilità, soprattutto per concerti, vabbè, a parte quello di Paul McCartney che è diventato un po' il simbolo, quanto riguarda i costi del biglietto. Mi ha scritto un ragazzo l'altro giorno dicendo che ha speso 1000 euro per il ticket, quindi capisco quanto sia comunque stata impegnata la parte economica anche del cliente. Quindi certo. Cosa abbiamo detto? Creiamo, visto che noi dobbiamo assolutamente, su questo io sono sicuro che il ministro Franceschini e il ministro Gualtieri stiano già lavorando sulla proposta della mia modifica per quanto riguarda la norma, dobbiamo dare la possibilità come Stato di diciamo entrare in questo processo, quindi il fatto del rimborso, creando un fondo in cui gli organizzatori possano rientrare perlomeno delle spese che hanno fatto. Però quindi, se ho capito bene, voi proponete un rimborso di questo tipo se uno non utilizza il voucher, credo per 2 anni, se ho capito bene, esatto. poi avrà i soldi, ma questo vuol dire li avrà tra 2 anni? Allora, diciamo che questa è la, come posso dire, l'opzione base, ok? Questo noi abbiamo fatto entrare il principio del rimborso dentro gli emendamenti del decreto rilancio. Chiaramente, come vi dicevo prima, io so che anche il Partito Democratico su questo è sensibile. Questo invece sarà il momento, insieme alla maggioranza, insieme al ministro Franceschini, che sono sicuro che interverrà su questa questione, e anche il ministro Gualtieri, per cercare di riformularlo e trovare una soluzione anche per cercare di accorciare i tempi per il rimborso. Sì. E però, cioè, io la vedrei così, Battelli, secondo me si potrebbe fare così: dare i soldi subito a chi non vuole il voucher e poi magari tra 2 anni rimborsare, o tra magari 2 anni no, perché sennò la filiera ha difficoltà, rimborsate il promoter. Dobbiamo capire anche quanta liquidità, perché ripeto, questa negli organizzatori e i promoter hanno affrontato una crisi, quindi io non me la sento. Certo, come certo. Sapete bene, ho fatto sul secondary ticketing e il presidente Vincenzo Spera lo sa benissimo, che ci siamo confrontati anche in maniera molto accesa. Lì era una questione diversa, che per quanto mi riguarda c'è dell'illegalità, ma non dei promoter, ma di una filiera diciamo diversa, che era quella del mercato secondario. Ma qui c'è obiettivamente un problema di una non colpa di nessuno. Perché io io credo che tutti gli organizzatori volevano fare un concerto, certo. Volevano creare l'indotto, volevano anche guadagnarci. Quindi in realtà lo Stato, che si sta in questi decreti, dal coup d'etat e dal decreto di lancio, aiutando il più possibile la filiera, io credo che in questo momento in cui purtroppo, e lo dico sia da frequentatore sia da appassionato, ma sia anche da legislatore che deve intervenire sulle filiere in difficoltà, la filiera del settore live è ancora, penso, la più colpita di tutte, perché non ha di certezze. No, ma è chiaro. Io vorrei anche chiedere per quanto riguarda invece i teatri, secondo lei la ripresa dell'attività teatrale con 200 posti al massimo distanziati, 200 persone comprese anche le persone che lavorano dentro al teatro, è un'ipotesi realizzabile? Nel senso, allora, riusciranno a vivere i teatri con questi numeri? Io credo che, ripeto, in questa fase in cui noi non conosciamo ancora la portata e quanto è la carica virale del virus, anche per quanto riguarda l'ipotetica, perché noi stiamo ascoltando il comitato scientifico, l'ipotetica ricaduta che potrebbe esserci in autunno, noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le prescrizioni di sicurezza. Credo che in questa fase, e l'hanno dimostrato gli scostamenti di bilancio, perché noi in un mese e mezzo abbiamo fatto uno scostamento di 80 miliardi, credo che in questa fase tutto il settore, soprattutto della cultura, perché il concerto, il teatro è tutta cultura che non dobbiamo abbandonare, debba essere aiutato dallo Stato in maniera virtuosa, quindi non soldi a pioggia, ma in aiuti concreti. Per esempio il fatto di rimborsare gli organizzatori, se diciamo il cliente vuole un rimborso del biglietto, questa è una cosa sacrosanta, perché ripeto, noi non possiamo dire che l'organizzatore ha fatto un illecito, poi appunto verificheremo quella roba di Paul McCartney, perché c'è stato tutto un casino, insomma, però diciamo in linea generale il concetto è questo. Io so per certo nessuno ha rubato soldi, è arrivato questo coronavirus. So per certo che io sono in contatto anche col mio collega europeo Furore, che è un europarlamentare del Movimento, che anche diciamo a livello di Parlamento europeo si sta muovendo nella stessa direzione che noi abbiamo proposto, quindi diciamo che siamo sempre avanti, sia sul secondary siamo stati avanti all'Europa, e anche su questo l'Europa vorrebbe creare un fondo per indennizzare appunto gli organizzatori. Vedremo come va a finire, perché Battelli, devo andare alla borsa se no sforo, ma guardi, su questo tema la richiamiamo, non si preoccupi, tanto sa che siamo affezionati a questo tema perché tanti ascoltatori ce lo chiedono, quindi per il momento la devo ringraziare. Però mi è comparsa qui una figura, un losco, piccolo losco figuro qui al mio fianco, il piccolo Mattia, che voleva dire una cosa a Leonardo Manera. Ma mi chiedevo, Ma sei un pagliaccio! Eccolo qua, il pagliaccio Manera. Guarda che pagliaccio che sei. È così, la è colpa così, è di ormai. Sandro Fortunato. È di Sandro Fortunato che non mi ha ancora installato la... Sandro sì. Fortunato. Ma che incredibile, cioè lui, il pagliaccio Manera, dà la colpa a Sandro Fortunato, che invece è la persona più efficiente. Io l'ho sentito anche ieri, era al lavoro, sabato, domenica, per risolvere tutti i problemi della radio. Insomma, possiamo concludere proprio così. Leonardo Manera è un... È un pagliaccio. È un pagliaccio. Allora, con adesso... L, con due L. Sì, con la L. Forse con due L dovremmo mettere, un pagliaccio. Allora, vai pure a scuola, anzi no, la scuola è finita. La scuola è finita per mio figlio e quindi non si può neanche dire vai a scuola. Ma c'è Deborah Rosciani a fare la borsa? No, c'è Livia Zancaner. Mi dispiace, Livia non Zancaner. Per Livia Zancaner, che no, certo, Livia Zancaner, si sa che sei innamorato di Livia Zancaner, questo me lo dici tutti i giorni. Ha una voce, bella voce Livia Zancaner, è una voce sì, molto radiofonica dal mio punto perché di vista. Perché adesso devi sminuirla? È una bellissima donna prima. Perché non la conosco voce. Di persona, non l'ho mai vista Livia no, Zancaner. Ma se me ne parli sempre quando sei in radio, dai! Ma sei un grande bugiardo, veramente. Ma adesso capisco che tu sia un po' imbarazzato, però diciamo le cose come sono. Vabbè, no, non è che mi dispiace per Livia Zancaner, che oggi è il compleanno di Deborah Rosciani. E quindi facciamo gli auguri a Deborah Rosciani. Poi, passiamo la parola all'innamorata segreta di Manera, nel senso che lui è innamorato di lei, Livia Zancaner per la borsa. Vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan e Manera, radical scicchi e maledetti. Ciao Milan, ciao Manera, sono Leonardo da Bari. I numeri che ha dato la signora per la cacarella di Manera erano 3 e 23 a Napoli. Io li ho giocati a Napoli, purtroppo è uscito solo uno, solo il 23 primo estratto, il 3 no. Sarà per la prossima volta. Ciao, buona giornata. Sono Giuliano da Trento. Mi ero regalato il concerto di Cristina D'Avena. Bene, adesso mi hanno proposto un voucher per vedere una certa Céline Dion. Ma chi è sta Céline Dion? Io voglio Mila e Shiro, Crimi. Vabbè. Non era proprio la cacarella di Manera, però. No, era il sogno dei gatti. Questo dà l'idea di come vengono travisate a volte le parole. Perché dai gatti si arriva alla cacarella? Questa è una cosa. Ah, perché era il gatto che l'aveva fatto. Il gatto stava facendo. Vabbè. Tu l'hai detto, è il tuo sogno. Ma tra l'altro posso dire una cosa? Adesso la gente penserà che sia un'invenzione. Ma io stanotte ti ho sognato. Che arrivavi in cima, potrebbe essere una montagna, l'Everest, ma in realtà era un 12.000 metri, che non esiste, era un 12.000. E tu arrivavi tutto ansimante e ce la facevi però, arrivavi lì, in cima a un 12.000. sì. Ti vorrei proprio vedere. Ho giocato anni a calcio nella Villanovese, quindi sono abbastanza in che serie? Forte. In che serie? Vabbè, adesso non stiamo a sottilizzare. Però dai, un dimmi buon in che serie. In che allora, serie? La Villanovese allora era in terza categoria e anche in seconda. Terza categoria, seconda. Quando sei arrivato tu eri retrocessa in terza ed eri a centrocampo? Centrocampista. Centrocampista numero 8, come Tardelli, diciamo. Vecchio numero 8. Ma no, ma io faccio apposta a far sentire tutto questo. Ma dai, ma ti paragoni a Tardelli? Cioè, voglio dire. Guarda che io nelle giovanili ho giocato anche in quella che poi sarebbe diventata per poco tempo, ma sarebbe diventata la Feralpi. La nazionale italiana. No, era la Feralpi. Era un ottimo centrocampista. Avevo solo un problema che ho già spiegato altre volte. Cioè, sì. Sì, cioè? No, avevo un problema, che allora io ero, come sono tuttora, sono miope, ma allora non si usava giocare con gli occhiali ed ero ancora troppo giovane e non avevo ancora le lenti a contatto, quindi il pallone sì. lo vedevo poco e male. Mamma quindi mia, soprattutto ragazzi. Quando si facevano gli allenamenti di sera, in mezzo al campo, ero in mezzo al campo. Cioè sì, di sì. giorno giocavo bene, la sera negli allenamenti giocavo male, quindi l'allenatore era sempre un po' perplesso. Tutto questo lo sta ascoltando AP9, il Bomber Picci. Signore Antonio Picci, eccolo qua. Bomber. Ciao Leo, buongiorno a voi. Cioè, grazie per ma tu ti rendi conto? Ma se tu avessi avuto, cioè perché è una squadra. Allora, il Bomber è il Bomber, però c'è una squadra dietro. Ma se tu avessi avuto Manera, uno orbo di sera. Che ha giocato in terza categoria e in seconda ha portato in terza categoria la sua squadra, ma tu quanti gol avresti fatti, Bomber Picci? Avremmo sicuramente giocato di col sole, perché avevamo problemi di vista. Dubito che cioè, mi avrebbe mandato in porta. Dai, su il Bomber Picci. Il Bomber Picci, attenzione, ha cambiato squadra, cambia squadra, calciomercato. Il Bomber Picci rimane a Trani, questa ce la devi spiegare, esatto. Ma cambi squadra e che succede? Ma più che cambio squadra, rimango a Trani, quindi Fedele comunque è una piazza, una tifoseria che, come avevo parlato, noi avevamo tantissimi problemi dal punto di vista societario, tifoseria che non si era riconosciuta in questa società, in questa presidenza, dato diciamo innumerevoli problemi che ha dovuto subire questa piazza di Trani e anche comunque tutta la squadra. È arrivato un importantissimo invece adesso progetto dirigenziale e imprenditoriale, quindi adesso ci sono veramente delle basi importanti per fare calcio a Trani, comunque senza ascoltare nessun'altra sirena. Ho spostato subito questo progetto capito, non ascolta le sirene, perché il Bomber Picci lo voleva un po' mezza Italia, diciamo la verità. Mezza Puglia, almeno un po' delle categorie un po' inferiori, dai, possiamo dire sì. Quindi ci siamo riconosciuti in questo progetto a Trani. Penso che adesso la piazza di Trani potrà riscattare gli ultimi anni di sofferenza, quindi c'è veramente tantissimo entusiasmo qui a Trani. Ma fammi capire, quindi adesso ci saranno due squadre, certo, ma ci saranno due squadre col derby oppure una squadra che è arrivata? Adesso il sindaco ha dato piena disponibilità a questo nuovo progetto, perché ripeto, penso che in un'organizzazione societaria, imprenditoriale, una squadra di calcio che poi è un'azienda, devi cercare di non far mancare niente poi ai propri tesserati, quindi il sindaco ha dato piena disponibilità per questo pieno progetto. Adesso c'è da vedere se questa squadra che c'era, secondo me, verrà dirottata da qualche altra parte oppure rimarrà a Trani. Ripeto, perché sennò se c'è il derby, ragazzi, come ti accolgono adesso? Cioè, cos'è che dicono? Tutti coloro che tifavano il Trani, la vecchia squadra, hanno già detto che spostano questo nuovo progetto, ma non lo vedo come. Ecco. È una situazione un po' complicata, non l'ho visto spiegare. Non lo vedo come un atto di tradimento, diciamo così, dal punto di vista di tifo. Che purtroppo loro, noi per esempio allo stadio avevamo 1000 spettatori, ma tranne una piazza che ne può fare 5-6.000, appunto non venivano perché fin quando c'era questa presidenza, questa società, avevano detto che non mettevano più piede allo stadio. Quindi aspettavano, diciamo, questa nuova società, questo nuovo presidente, per far sì di far tornare la passione allo stadio, alla città di Trani. Cosa che adesso è avvenuta, e quindi adesso tutti quanti sono entusiasti e sono molto, diciamo, aperti a questo, nuovo progetto. Speriamo che si riparte alla grande per vincere un campionato. Si riparte a settembre, ma attenzione, vincere il campionato, vedi, col Bomber Picci si punta alla vittoria. Quindi adesso però il campionato, quello non riprenderà più, la Lega Pro. Basta. No, eccellenza, siamo arrivati terzi, ci può essere Che succede? Che succede? Siamo arrivati terzi, che succede? Promozione, adesso non promozione? Proprio oggi c'è un consiglio federale dove decideranno il da farsi per quanto riguarda le categorie. Penso che faranno salire tutte le prime ci sarà la cristallizzazione delle classifiche, faranno salire le prime in classifica di ogni girone. Questi, diciamo, sono i punti un po' dove si rapporteranno oggi nel consiglio federale, e poi ci saranno i ripescaggi dove logicamente ci può essere anche, diciamo, il Trani dove io ero ero in resquadra perché comunque eravamo terzi, quindi comunque ci possono essere anche dei ripescaggi per quanto riguarda le seconde e le terze in classifica, tutto qui. Sei riuscito a mantenerti in forma in questo periodo, ti sei lasciato andare col cibo pugliese? Ragazzi, no, io sono un mese che adesso, logicamente poi io venivo non solo da un lockdown, venivo anche dall'infortunio che voi tutti mi avete seguito, sì, ormai da tempo, quindi a me c'è stato questo lockdown più un infortunio grave, e adesso è un mese che mi vado ad allenare individualmente sulla sabbia e sto cercando di recuperare, adesso veramente sto quasi bene, quasi al top, quindi mi sto mettendo veramente in forma. Quanto hai preso? 10-12 kg? Quanto hai preso? No, ragazzi, c'hai ragione, no, poi conoscendo la Puglia, qui si mangia bene, quindi è stato un lockdown dal punto di vista alimentare molto molto pericoloso, quindi mi sto molto dando da fare adesso. Perfetto. Però attenzione, è quasi al top, lasciaci con una massima da Picci, dai, il lockdown ti avrà ispirato qualcosa, poi c'è il ritorno, che dice, no, Picci adesso alla prima intervista in TV? Che dire, io più che per me è un giocatore, io sentivo parlare prima, no, del fatto che un giocatore deve essere tecnico, devi avere qualità e tutta sta roba qui, no? Ma io penso che io, per come mi ci vedo io, no? Un lottatore non deve mai mancare l'appuntamento con lo sport, deve essere immune a questo e deve finire col vincere grazie alla sua esistenza. Quindi, ragazzi, bisogna essere perseveranti nella propria vita per raggiungere i propri obiettivi. È questo che cercherò di fare da qui fino alla fine, la perseveranza. Ti chiamano le figlie adesso. È bene sì. Che tu dia retta alle figlie, anche se non fai gol. Ricordiamo che il Bomber Picci dice: quando io non faccio gol neanche riesco a parlare a mia figlia. Ma adesso torna al top, il top del Bomber Picci a P9, riprende il calcio mercato. E lo dico, riprende il calcio soprattutto pensando a Claudia Schiattone, che è lì a fianco al nostro alpino in regia. Riprende il calcio venerdì, soprattutto c'è una importante partita che certamente i ragazzi vedranno. Quali ragazzi però? Bianconeri e rossoneri, ovviamente. Finirà come al solito con il 3-0 per la Juve, si sa, è così. Va bene, Leonardone, Vestaglione, Pagliaccione in maniera, andiamo al traffico, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Dove l'avete messa la Fusconi? Dov'è Elisabetta? Ma insomma, secondo l'interpretazione dei sogni di Freud, quando i gatti defecano davanti alla persona, in questo caso maniera, vuol dire che la stessa persona si innamorerà di Lilia Zancanello. Milan, Manera giocava a centrotavola, lo dico io, ciao. Ecco, pure questa, Leo. Ecco, un centrocampista senza visione di gioco praticamente. Effettivamente il centrocampista regista cieco, cioè nel senso che orbo miope. Io lancio qui, sì, allora la proposta ufficiale: quando si potrà riprendere una partita di calcio di Radio 24 contro qualsivoglia altra squadra per dimostrare le mie qualità di centrocampista, di giocatore anche a tutto campo, devo dire, magari, comunque come centrocampista. Magari, il nostro alpino ha già detto magari e ci sarà. Vedo che sorvoli però sulla questione dell'interpretazione del sogno, l'innamoramento di Livia Zancanera, tuo nei suoi confronti. Ma io so che tu l'hai mandato proprio la settimana scorsa dei gran fiori, quindi è inutile che dica. ma adesso vedi, ma questa è credibilità zero, cioè chiaramente lo fai per cercare di sviare, va bene, approfondiremo questo rapporto. Va bene, soprattutto lo approfondirà il marito di Livia Zancanera, che ci ha già scritto delle informazioni, vuole sapere delle informazioni più dettagliate. Scusate, non ho capito bene esattamente l'innamoramento di Manera verso chi. Le rose le hai mandate tu comunque. Sì, allora signori, credo purtroppo, o per fortuna, io dico purtroppo, che annunciato forse anche addirittura da un inno che potrebbe partire se ce l'abbiamo a disposizione, stia arrivando, eccolo qua. Pisci anche tu, pisci anche tu, lo capisci anche tu. Sio Garosio. Allora è inutile ironizzare. Buongiorno a tutti, sono sì, Pierpaolo. Buongiorno. No, sono Giampaolo, scusi, ho sbagliato il mio nome. Giampaolo Garosio, ho detto Geppo. Ah, qualcuno pure, mi chiama Geppo. Giampaolo, qualcuno mi chiama Pierpaolo, non ha importanza, sì, i ciapi di Nuria Verbo. Allora, lei non mi interrompa quando sto parlando io sì, non l'ho interrotta sì, per tutto il tempo che ha parlato in precedenza, altrimenti abbandono lo studio, interrompo il collegamento. Magari. Allora, io ho fondato il mio partito, Partito sì? Super Sovranista Italiano, PSSI. Si pronuncia Pissi, come abbiamo sentito prima da Lino. E io sono un super sovranista, sono uscito dalla Lega. Perché sono uscito dalla Lega? Perché? Salvini è troppo moderato. Per esempio, lui è contrario a tornare a scuola con i plexiglass e le mascherine. Io invece sono contrario proprio a tornare a scuola in generale. Tanto diciamo la verità, se non impari le tabelline, usi la calcolatrice e il telefono e nella vita te la cavi lo stesso. E nella io, ma per esempio, come? Secondo lei, io studiassi. Secondo lei, non mi interrompa. Secondo lei, io, il sottoscritto, sì? Geppo, io Geppo, ho studiato. Io Geppo, no. ho studiato. Non mi interrompa. No, esatto, lo stavo dicendo io. Eppure, non mi sembra che tra me e chi ha studiato ci sia poi questa differenza. Anzi, questo lo dice lei. Non mi interrompa. Amico dei poteri forti, Torre d'Avorio Milan, che abita nel suo attico superato con i canguri. Allora, la stiamo facendo più grande di quello che è. Sì, lei ha tutto uno zoo, l'acquario di Genova se l'è fatto portare nel suo attico. Ci sono le fotografie. Sì, i gatti, i pinguini, i delfini, gli squali nella vasca. Allora, stiamo facendo più grande di quella che è. Capisco che tu sei un radical chic e ci tieni che tuo figlio torni in classe. Perché ci tieni tanto? Perché voi radical chic ci tenete? No, perché la scuola italiana la scuola italiana è fatta solo da insegnanti di sinistra Ixunt Veritas, che invece di far lezione mettono su questi insegnanti bella ciao, poi girano tra i banchi lanciando maglietti Che Guevara e inneggiando alla rivoluzione, e diciamolo perché è una parola poi ti finisce dentro lì e capisci. Questa è la scuola italiana che sta plagiando le nostre nuove generazioni. Allora questi qua raccontano che i partigiani sono buoni e i fascisti sono cattivi, ma chi l'ha detto? I fascisti hanno fatto le bonifiche, ecco, per esempio, non mi pare di ricordare che i partigiani hanno fatto le cose buone. Ricorda un partigiano che ha fatto la bonifica, per esempio? No, va bene. Ma non me lo dica, lei che è così radical chic, hanno fatto qualche bonifica dell'Agro Pantino? Non l'hanno fatta. Diciamo la verità, i partigiani non facevano neanche arrivare i treni in orario. Garosio non ci sta. Chi dice Garosio dice verità, parola di Geppo, perché come dice il proverbio, a furia di masticare non riesci più a deglutire. Intanto mandiamo lì dal Pisi. Senti che brutto. Anche tu, super sovranista italiano, ti difendi ogni giorno di più. Veniamo al tema di oggi. Parliamo di questa emergenza. Per chiarire le idee al popolo. Allora prendiamo questa emergenza. La cosiddetta pandemia non esiste, ma non solo non esiste, questo ormai è acclarato. Non c'è mai stata. L'hanno inventato i poteri occulti per poter maneggiare le nostre vite. E qui veniamo alle grandi verità. Chi sono i poteri occulti che hanno inventato la pandemia? Che la verità viene dopo che hai detto sono stato chiaro. Primo potere, chiarissimo. Allora, primo. La lobby dei produttori di monopattini che grazie ai bonus hanno decuplicato le vendite. questa. Vabbè. Un'altra lobby, la lobby dei produttori di gazebo, perché dopo sì, mesi chiusi in casa tutti vogliono stare sempre fuori, ma con la calura estiva ti devi comprare un gazebino. E stiamo quindi chiudendo, non mi interrompa, Garo. Vedi che no, quando vengono le verità, ma ci sono i tempi, poi ci dica un altro potere forte. Quando le verità vengono a galla, i topi vanno nel buco. Questo è il proverbio che bisogna dire oggi. Quando le verità vengono a galla, il topo va nel buco. E quindi se le vendite di gazebo sono schizzati, me lo togli. Guardi Garosio, la ringraziamo moltissimo. C'è Manera. E poi la terza lobby, no, gli amici di Barbara Dottina. Toglilo, ma che Barbara Dottina, tira giù. Volevo salutare Leonardo, il pagliaccio Manera, se c'è ancora. Pagliaccio, ci sei ancora? Un attimo, pagliaccione? Leonardo, allora, è finito lo scoop tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Basta Garosio, basta questi del Pissi. Ci troviamo domani.